357. Lesso rifatto all'italiana. Se non vi dà noia la cipolla, questo riesce migliore del precedente. Per la stessa quantità di lesso, trinciate grammi 150 di cipolline, mettetele in padella con grammi 50 di burro e allorché cominciano a rosolare, buttateci il lesso tagliato a fette sottili, uno spicchio d'aglio intero, vestito e leggermente sfiacciato, che poi leverete, e conditelo con sale e pepe, via via che accenna a prosciugare, bagnatelo col brodo, e dopo 7 o 8 minuti uniteci un pizzico di prezzemolo tritato e il sugo di mezzo limone, e servitelo.